got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento di Radio 24. Parliamo di cucina, ricette, per parlare di identità dell'Italia che cambia, grazie anche alla presenza in Italia di molte persone che hanno le radici da qualche altra parte. Letteratura, migrazione, cibo, tre temi che spesso si intersecano. Tempo fa ce ne eravamo occupati per la raccolta di racconti dal titolo Mondo Pentola di Cosmo Iannone Editore. Oggi lo facciamo raccontandovi di un concorso letterario. Si chiama Lingua Madre, è un concorso diretto a tutte le donne straniere anche di seconda e terza generazione residenti in Italia che utilizzando la nuova lingua, cioè l'italiano, vogliono approfondire il rapporto tra identità, radici e il mondo altro. È un concorso tra l'altro che ha permesso di scoprire dei talenti narrativi, fra questi anche Ali Fara, un'autrice italo-somala vincitrice della prima edizione con Madre Piccola, che abbiamo avuto ospite qualche tempo fa, così come Laila Wadia dell'India, originaria dell'India, che abbiamo sentito in una nostra puntata l'anno scorso, e Gabriella Caruvilla, un'altra scrittrice che ha esordito proprio con il concorso Lingua Madre. Fra queste autrici che sono state segnalate per questi racconti del concorso Lingua Madre, l'ultima edizione, c'è anche la nostra ospite di questa sera, Ramona Anaciuk. Buonasera. Buonasera. Allora, lei ha scritto un racconto che ha molto a che fare con il tema della nostra trasmissione perché parla di cibo, no? Mi ha molto colpito questa farina che sua nonna maneggiava e che doveva diventare pane e che lei scrive doveva essere prima coccolata, riscaldata vicino alla stufa, come se fosse un essere vivente. Il racconto si intitola Magia del passato. Lei viene da che paese e come le è venuto in mente questo racconto? Vivevo in un piccolo paese vicino alla Moldavia, praticamente al confine con la vecchia Russia, la vecchia Unione Sovietica. Il paese si chiama Vaslui, è piccolino, sono all'incirca 60.000 abitanti, però le vacanze, come avevo scritto anche nel racconto, le passavamo solitamente dai nonni, soprattutto dai nonni paterni e raramente dalla nonna materna, dove c'era appunto questa mia cugina nella quale scrivo nel racconto. E il racconto è nato quando lei aspettava il suo secondo figlio e noi stavamo appunto preparando il pane, stavamo praticamente giocando, perché ormai preparare il pane in casa è più un divertimento che non una necessità. E mi sono venute in mente queste immagini del passato di noi due piccoline, dalla nonna che aiutavamo, tra virgolette aiutavamo, spesso a far da mangiare, a preparare il pranzo o la cena per il nonno. You gotta give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. You gotta laugh a little, cry a little, before the clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. Come mai lei è arrivata in Italia? Quali erano le sue aspirazioni? Io volevo cambiare, quindi l'Italia è stata una scelta casuale in quel momento, perché avevo degli amici che vivevano e lavoravano qua, quindi hanno potuto ospitarmi all'inizio fino a quando ho trovato un lavoro. Io ho studiato ragioneria e tuttora mi occupo di... sono impiegata in un'azienda, quindi ho continuato quello che facevo già in... Quando è arrivata? 15 anni fa. Non posso dire di appartenere a una nazionalità piuttosto che a un'altra, perché tutte e due sono importanti. La Romania è stata la mia casa fino a quando ho compiuto 22 anni, l'Italia lo è adesso, non si sa fino a quando lo sarà, quindi non mi sento di più né italiana né rumena. Come mai ha partecipato a questo concorso? Ho iniziato a scrivere da quando sono in Italia. Stavo spesso a casa da sola, non conoscevo nessuno. Un po' per imparare la lingua ho iniziato a scrivere delle cose banali, dei pensieri. È stata la mia osteopata che aveva letto questo racconto che mi ha detto: ma perché non partecipi? Prima che scadesse il bando l'anno scorso, in fretta e furia ho stampato questo racconto, l'ho spedito, poi sono stata contattata, che appunto mi è stata data la bella notizia di aver vinto il premio Slow Food. Non è stato premeditato, ecco. Lose a little, and always have the blues a little. That's the story of, that's the glory of love. Grazie moltissimo a Ramona Anacciuk, il suo racconto Magie del passato, che ha vinto appunto il premio speciale Slow Food del concorso Lingua Madre per donne autrici straniere in Italia. Grazie ancora. Grazie a voi. E ora siamo in collegamento con Daniela Finocchi, ideatrice proprio del concorso Lingua Madre. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Grazie per essere con noi. Come mai le è venuto in mente di ideare questo concorso dedicato proprio alle donne che scrivono e che sono di origine straniera? Ma il concorso nasce nel 2005 e nel tempo io seguivo per un settimanale femminile il Salone Internazionale del Libro di Torino e mi era stato chiesto dalla direzione di pensare a un concorso da destinare alle lettrici. Quell'anno nasceva il programma Lingua Madre della Regione Piemonte del Salone del Libro e una delle proposte che portai al giornale fu appunto questa, di un concorso dedicato alle donne straniere. Poi il giornale fece altro, però a me continuava a sembrare una buona idea, anche perché allora non c'era nulla destinato alle donne straniere, e così l'ho proposto prima al Salone del Libro, poi alla Regione Piemonte, e siamo partiti con questo progetto. Che ha, come dicevo all'inizio della puntata, ha permesso anche di scoprire alcuni talenti narrativi, no? Sì, senz'altro. Questo non è lo scopo principale del concorso, perché quello che ci preme non è tanto trovare la scrittrice appunto emergente, quanto quello di creare relazione, confronto, scambio, però sicuramente direi praticamente tutte le autrici che scrivono in italiano e che sono considerate emergenti nell'ambito della scrittura cosiddetta della migrazione sono passate dal concorso Lingua Madre, da Claude Leigh a Lemes Diaz, a Laila Vadia, a Alifara, a Cristina sicuramente e tante altre, insomma Cristina da Costa, Bukvic. Torniamo a parlare tra poco di identità, cucina e ricette. You've got to Give a little. Indovina chi viene a cena. Give a little, take just a little. Let your poor heart bleed a little, but baby, that's the glory of love. Cry a little, sigh just a little. Let your cloud roll by, baby, little, but baby, that's the glory of love. Long as there are just the two of us, have the world in its charm. Long as there are just the two of us, we hold each other's arm. Baby, now win just a little, lose just a little. Sometime had the blues a little, but baby, that's the glory of love. Quello del cibo della memoria, come nel caso che abbiamo appena ascoltato di Ramona Anacciuk, è un tema frequente, questo dei piatti, del cibo e anche appunto della memoria per il paese d'origine. Sì, sicuramente il cibo è molto presente nei racconti, e non a caso infatti abbiamo un premio speciale offerto da Slow Food Terra Madre, proprio dedicato a questi racconti che privilegiano il cibo, il rapporto con la natura, con la terra, quindi questo sicuramente. E poi anche non a caso è nata la collaborazione con Expo 2015 e WWF Expo, proprio per questo, insomma, proprio perché la cultura del nutrimento comunque appartiene alle donne, ecco, sono protagoniste delle pratiche di cura e nutrimento dell'umanità, depositarie, no, della cultura alimentare, delle tecniche, le arti che riguardano il cibo, la sua preparazione, conservazione e la sua trasmissione. C'è, secondo lei, un continente dal quale arrivano più racconti poi di donne in Italia? Ma no, questo no, veramente abbiamo provenienze da tutte le parti del mondo che rispecchiano un po' quella che è la migrazione in Italia, quindi veramente ci sono donne dal Sud America, che arrivano dal Sud America, dall'Africa, da tutti i continenti, da tutti i paesi d'Europa. C'è stato un incontro, un tema che è uscito dai vari racconti che lei, insomma, ha trovato inusuale? Allora, da una parte, visto, anche per collegarmi a quello che mi chiedeva sulla provenienza, il cambiamento che negli anni c'è stato grazie alle seconde, terze generazioni, e quindi per esempio tutte le comunità asiatiche hanno via via partecipato sempre di più. Che forse all'inizio erano meno presenti. Sì, cosa che all'inizio non era così. Quindi questo è sicuramente un aspetto. E la cosa che sempre continua comunque a stupirmi è come le donne, al di là delle origini, della provenienza, della nazionalità, della religione o del ceto sociale, poi si riconoscono, quando si incontrano, si riconoscono appartenere, no, a una stessa, Carla Lonzi diceva addirittura una stessa specie, però poi è così. Give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory. As long as quello che emerge è che le donne hanno uno stesso modo di affrontare la vita e di viverne gli eventi. Questo è il dato di fondo che non relega affatto a un ghetto, anzi sui percorsi di migrazione si innestano poi quei cambiamenti che portano anche al cambiamento delle società, soprattutto nell'ambito di quelle società arcaiche dove di certo non saranno le guerre degli uomini a portare un cambiamento, no? Cioè... Io la ringrazio molto per essere stata con noi e invece parliamo con Laura Malaterra, che è regista invece di uno spettacolo teatrale legato al concorso Lingua Madre, Donne che cucinano la vita, tratto proprio dai racconti dedicati al cibo. Buonasera, buonasera. Allora, buonasera, come dicevamo, Valentina. Come abbiamo anticipato, cioè, lei è la regista di questo spettacolo. Ci racconti qualcosa di come è nato questo spettacolo? È nato sulla proposta della dottoressa Daniela Finocchi ho proposto che il filo conduttore fosse il cibo, perché leggendo i racconti, moltissimi racconti, queste donne si ritrovano, raccontano le proprie esperienze di vita, i propri segreti cucinando. E quindi è nato Donne che cucinano la vita. Tratto da alcuni dei racconti, no? Sì. Quali sono quelli che l'avevano colpita di più? Probabilmente sono 10 anni di racconti, quindi diciamo che... C'era una bella scelta. Sì, maggiormente dai racconti del 2006, 2008, 2011. Per esempio posso citare il Tabulé di Lidia Chielichia, non so mai bene se pronuncio bene. Tabulé è una nuova ricetta, oppure Tutto sul caffè di Tetiana Gordienko dall'Ucraina, Due volte sul tram, ecco, questo non c'entra con il cibo, ma è un racconto, e faccio un piccolo intervento, diciamo, di queste tre attrici che parlano poi anche di cibo su un tram. E infatti mi è interessata molto più che altro sia fare la regia, ma anche la riduzione teatrale, perché vedere proprio, diciamo, questi racconti messi in scena, ecco, è stata una grande soddisfazione. Quindi il cibo come filo conduttore della memoria, dell'identità di queste persone. Esatto, il cibo conduttore proprio dell'identità, perché ci sono, si potrebbero estrapolare addirittura appunto le ricette. Adesso ho citato il tabulè, ma oppure ecco il caffè che viene chiamato Tutto sul caffè, e lì è pronunciato visià o coffè. E quindi diciamo sì, le ricette sono anche un po' un momento storico, perché si possono percepire tanti spunti, ed è proprio una storia quasi del cibo. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas. E adesso siamo in collegamento telefonico con Lidia Keklikian, difficilissimo questo nome, vincitrice anche lei di questa parte del concorso Lingua Madre dello Slow Food, dedicata proprio ai racconti che hanno a che fare col cibo. Buonasera innanzitutto, Lidia. Buonasera a lei. Grazie di essere con noi. Anche con lei parliamo di letteratura, di integrazione e di cibo, perché il suo racconto, quello che aveva presentato e che ha vinto, come si intitolava? Tabulè, una nuova ricetta per l'integrazione. Insomma, tabulè lo conoscono molti ascoltatori, è un piatto in cui c'è un'armonia di gusti, di colori, che però lei prende come metafora, no? Prendo come metafora perché dopo anni di vita, di esperienza in Italia, mi sembrava l'immagine più giusta per parlare di integrazione. Per riuscire a preparare un buon taboulé non basta conoscere la ricetta, leggo. Cosa significa? Ogni ingrediente va lasciato libero di essere se stesso. È questo quello che riscontriamo nella vita quotidiana per quanto riguarda il rapporto tra persone diverse. Non basta conoscere il termine integrazione, in quanto tutti usiamo questo termine e tutti pensiamo di essere in grado di vivere concretamente questa cosa. Per cui non basta avere la ricetta del taboulé, non basta essere bravi a tritare il prezzemolo, ma bisogna lavorarci personalmente, come bisogna investire tutti se stessi personalmente in un percorso di integrazione che deve coinvolgere le due parti. Mi piace quando lei dice che bisogna rispettare la singolarità di ogni ingrediente, no? Di ogni persona. L'integrazione, bisogna stare attenti, le scrive, a non sopraffare l'altra persona, a non prevaricare l'anima dell'altro, come nella ricetta, no? Quando un ingrediente non deve prevaricare un altro. Sicuramente, perché tante volte riteniamo che l'integrazione possa realizzarsi quando gli immigrati si sciolgono nella cultura in cui si trovano a vivere, e questo non è un percorso corretto a mio avviso per vivere un rapporto un rapporto alla pari di persona con altre persone, in quanto se mi sciolgo nella cultura in cui mi trovo a vivere non sono più me stessa, per cui non sono più Lidia Keklikian. Certo, lei da dove proviene, Lidia? Sono nativa del Libano e di origine armena. E come mai è arrivata in Italia? È stato un caso, il mio arrivo in Italia è stato un caso. Da quanti anni è in Italia, quando è arrivata? Quasi 28. E diceva di origini armene, quindi insomma anche lì una ferita, no? Perché sappiamo, insomma, la storia della popolazione armena è stata una storia sofferta. Certo, sofferta e continua ad essere sofferta, ma una ferita, se vogliamo viverla in modo da costruire qualcosa di positivo per il futuro dei nostri figli e delle generazioni che crescono e sono più giovani di noi, una ferita dalla quale dobbiamo imparare per impegnarci in prima persona per un percorso di dialogo, di pace tra i popoli, tra le persone, tra le culture, tra le religioni. Senta, siccome noi iniziamo di solito la nostra trasmissione parlando di una ricetta, chiediamo all'ospite di raccontarci una ricetta che rispecchia la sua identità o è legata a un ricordo dell'infanzia, del paese d'origine. Chiudiamo invece questa volta la puntata con lei che ci dice una ricetta, non so se sarà il taboulé, no? Però c'è qualcosa che le ricorda la sua infanzia o che le sue radici. Ma le mie radici, essendo multiple, una ricetta è il taboulé, che è una ricetta libanese non solo, ma di tutta la regione. Quella migliore, è il piatto migliore e più buono, quello preparato da mia mamma, da cui mi sono ispirata per scrivere il racconto. E un'altra ricetta legata alle mie origini armene, un dolce che si preparava in casa quando ero piccola e al quale contribuivo assieme a mia mamma, alla nonna, ed è molto interessante perché è un dolce che si trova anche nella regione medio orientale, non è solo un dolce armeno, ma quando lo si preparava, il mio contributo consisteva nel pestare con i piedi la teglia dove c'è questo dolce. Certo, mettendo un lenzuolo sul dolce, ed è un aspetto molto bello in quanto aiuta i bambini a partecipare alla vita familiare anche concreta attraverso il cibo. Come si chiama questo dolce? Si chiama Kadayif, ma ha dei nomi diversi in base anche alla lingua in cui si usa, perché è un dolce medio orientale, un dolce armeno, un dolce che si prepara anche in Turchia. E quali sono gli ingredienti principali? Ingredienti, zucchero, burro e un tipo di pasta tipo capelli d'angelo, per capirci. Noci tritate e delle spezie tipiche della regione. Grazie mille, buona serata. Grazie a lei, buon lavoro. Il tempo a nostra disposizione è scaduto, speriamo insomma di avervi aperto una finestra sul mondo della letteratura e della memoria anche attraverso il concorso Lingua Madre, e io ringrazio in regia Valeria Bernardi, tutti voi per l'ascolto, vi rinnovo l'appuntamento sabato prossimo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of love.